dimmi l'atto. Non so cosa gli ho detto. Fammi dire. Placcaggi bassi, eh? Allora, Carlo Festuccia, una grande giornata di sport, rugby, lontano dal grande rugby della nazionale, ma vicino a quello che è il rugby di base, che forse anche è più ti appassiona, no? Sì, il rugby nostrano è il rugby costruito dai bambini e dalle famiglie che gli ruotano intorno. E questo è principalmente il principio di questo sport, lo spirito di questo sport, che poi con l'andare avanti, col crescere, può diventare un lavoro, ma che alla base ci deve essere uno spirito, una mentalità completamente diversa, e per creare un gruppo di amici come prima cosa. Sembra anche una passione che sopravvive ai risultati alterni, a volte deficitari, della nazionale, no? Sembra che in qualche modo questo sport abbia fatto breccia nella cultura sportiva italiana. Sì, ha fatto breccia, appunto, perché la gente lo ammira come sport diverso dagli altri, uno sport in cui per raggiungere l'obiettivo, che è fare la meta, bisogna passare la palla indietro. È uno sport che a me personalmente aiuta anche nella vita, perché quando sei in campo, anche da bambino, come questi ragazzi giocano oggi, ci sono delle differenze fisiche enormi e devi affrontare degli avversari che a 10 anni o 9 anni possono essere il doppio di te, quindi può essere visto come una cosa metaforica, una montagna da scalare, un problema della vita, quindi è poi un ambiente anche per le famiglie ideale per far crescere i propri figli, conoscendo altri genitori, costruendo, come hanno fatto qui i Pirati, un campetto, siamo partiti dal nulla per costruire un movimento che pian piano negli anni chissà cosa porterà. Senti, da te, giocatore, insomma, di vertice, professionista, qual è qualche consiglio per il giusto approccio per famiglie e bambini per avvicinarsi a questo sport? Ma il consiglio sicuramente è quello di non forzare il bambino ad andare a giocare a rugby. Può essere lanciata lì come idea, se lui la recepisce al volo, portarlo al campo, ma senza forzarlo di tu fare questo, tu fare quest'altro, perché è uno sport di contatto, e dove il contatto è alla base di tutto, e se il bambino ha paura non bisogna forzarlo, verrà con il tempo. Quindi il consiglio è sicuramente quello di far scegliere al bambino se vuole giocare a rugby o fare altri sport, ma mai imporsi, perché non si ottiene nulla. Grazie, Carlo.